Io avevo detto all'inizio che non sei solo un giornalista di cinema, di cultura, ma anche scrittore, perché da qualche mese è uscito il tuo libro Quando il fumo si dirada, momenti di una vita tra politica, arte e cultura partigiana. Sì, cominciato tutto fine luglio del 2019, ho pensato di scrivere un libro. Sono stati tanti gli stimoli, avevo sempre detto no, ma a chi può interessare, non capisco lo scopo. Invece poi ci sono stati vari eventi, vari stimoli appunto che mi hanno spinto a farlo, e in diversi mesi, nei ritagli di tempo, ho cominciato a buttare giù quello che alla fine è un diario. Quindi sono tanti momenti che messi insieme danno un po' una visione d'insieme, per l'appunto, su quella che è stata la mia esperienza, a partire dall'impegno politico fino ad arrivare all'interesse per il cinema e il teatro, grazie soprattutto a Radio Onda Rossa. E poi all'inizio del 2020 era tutto pronto, però poi c'è stato il primo lockdown, non avrebbe avuto senso fare uscire un libro in quel momento, e mi sono fermato. All'inizio pensavo di pubblicare con la casa editrice di Marcello Baraghini, ex Stampa Alternativa, per chi la conosce, ha avuto un ruolo molto importante negli anni 70, adesso si chiama Strade Bianche, la sua editrice, però avrei dovuto aspettare un po' di mesi. Io avevo papà ammalato, il libro è dedicato a lui, e allora ho detto no, devo fare in un altro modo. Mi è stata suggerita una piattaforma, e però rispetto all'edizione cartacea, con quel formato che avevo pensato e a quel prezzo di copertina che avevo immaginato, mi avrebbe dato come diritti d'autore una cifra esigua. Io ho detto, ma devo pubblicare un libro per arricchire altri, non esiste. Allora me lo sono pubblicato da solo, attraverso una tipografia di Frosinone, che si occupa soprattutto di arte, aperta dal 1946, quindi ha una lunga esperienza. Il risultato infatti mi ha molto soddisfatto, e invece l'edizione digitale l'ho lasciata a questa piattaforma. Ho fatto a dicembre anche una prima ristampa, sto preparando la seconda, perché poi mi sono anche reso conto, parlando con chi è con me, ha vissuto parte della mia storia o è presente nel libro, mi ha aiutato anche a ricalibrare il ricordo. Quindi ho aggiunto cose, ho modificato cose, mi sono reso conto che è un'opera in divenire, quindi anche l'edizione è diversa. Ho scelto poi la terza persona, questo mi è venuto quasi automatico, perché è una storia attraversata da migliaia e migliaia di persone. Allora, quindi, anche per rendere onore a tutti questi protagonisti, magari anonimi, e anche per vedermi da fuori, un'operazione interessante, vedersi nel corso degli anni quello che si è fatto, e quindi per potersi anche un po' analizzare, è buono vedersi dal di fuori, e io questo ho cercato di fare. Dove possiamo trovare il libro? In digitale ovunque, sulle principali piattaforme. Il cartaceo per ora a Roma e Grosseto, sempre sul mio blog c'è la pagina dedicata al libro, dove c'è l'elenco delle librerie in cui si può trovare.